Ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro quinto, versi 46-336. Perseo, figlio di Danae, dunque fratello di Minerva, ha salvato da una belva enorme Andromeda incatenata a uno scoglio, e re Cefeo, padre di lei, gliel'ha promessa in moglie. Ma Fineo, zio ed ex fidanzato di Andromeda, irrompe con una folla di armati nella reggia per turbare la festa di nozze. Ecco Palla della guerriera che protegge il fratello con l'egida e gli fa coraggio. C'era un indiano, Ati, raccontano, partorito da una Limnee, figlia del Gange, in acque di cristallo, bellissimo, d'una bellezza accresciuta dall'eleganza sfarzosa nello sboccio dei suoi 16 anni. Indossava una clamide tiria tutta bordata da un orlo d'oro, monili d'oro gli ornavano il collo, un diadema gli si curvava in ghirlanda su capelli spruzzati di mirra. Era abilissimo a cogliere il segno col giavellotto pure a distanza e ancora più abile a tendere l'arco. Sta piegando all'indietro le elastiche corna dell'arco che Perseo, con un tizzone che fumiga in mezzo all'altare, lo prende in faccia e ne fa un pasticcio di ossa in frantumi. Quando vede quegli occhi stupendi nuotare nel sangue, Licabante l'assiro, amico attaccatissimo a lui, che non nasconde di amarlo, ma di amarlo davvero, piangendo ancora il suo Ati, che vede esalare la vita per l'orrida piaga, raccoglie l'arco che quello tendeva e dice: «È con me che tu devi misurarti, con me! Non avrai troppo da compiacerti della morte di questo ragazzo, che ti varrà più odio che gloria». E non ha finito di dirlo che una freccia appuntita gli schizza dal nervo. Ma Perseo la schiva, ma è lì che pende dal suo mantello. Il pronipote di Acrisio gli punta la daga falcata che aveva sgozzato Medusa e gliela pianta nel petto. E lui, morente, con gli occhi che galleggiano già nella tenebra, cerca Ati, lo cerca, si lascia cadere sopra il suo corpo e porta ai mani il sollievo di essere morto con lui. Ecco Formante, figlio di un Metione di Siene e di libico Anfimedonte, smaniosi di menare le mani, che cascano scivolando insieme sul sangue che stiepidiva il terreno tutto intorno. Fan tanto di alzarsi che glielo impedisce una spada, piantandosi nella gola di Formante, nel torso dell'altro. Ma Erito, figlio di Attore, armato di enorme bipenne, Perseo no, non lo affronta con la spada lunata, solleva a due mani un ingente cratere di peso mostruoso, massiccio, sbalzato di alto rilievi, e glielo sbatte sul capo. Quello vomita un fiotto di sangue scarlatto e, piombando all'indietro, percuote il terreno con la nucca languente. Poi Polidegmone abbatte, del ceppo di Semiramide, e Abari, l'uomo del Caucaso, e un figlio dello Sperchio, ed Elice, con quei capelli intonsi, e Flegias, e Clito. Li abbatte Perseo e calpesta covoni di gente che muore. Fineo, che non si sogna di battersi all'arma bianca, un giavellotto scaglia che per sbaglio si abbatte su Ida, astenutosi dalla battaglia in inutile neutralità. Quello allora, fissando di sbieco il crudelissimo Fineo, mi costringe a prender partito. Allora eccoti, Fineo, il nemico che andavi cercando, e ti rende colpo su colpo, ma nell'atto di riscagliargli la lancia estratta dal proprio corpo, crolla afflosciandosi su membra vuote di sangue. A quel punto anche il più nobile dei Cefeni, dopo il re Odite, cade sotto la spada di Climene. Ipseo colpisce Protoenore, l'erede di Linceo, Ipseo, Nella zuffa si avanza un gran vecchio, Emmazione, cultore del giusto e timorato del cielo, che non potendo combattere per gli anni, con la parola combatte e maledice quelle armi scelleratissime e si abbraccia all'altare con tremule mani e col ferro cromi gli stacca la testa. Rotola sull'altare la testa e una lingua non morta del tutto pronuncia ancora imprecazioni e l'anima soffia via in mezzo alle fiamme. Indi, fratelli gemelli, Brotea ed Ammone, invincibile nel pugilato, ove mai i cesti potessero vincere le spade, cadon per mano di Fineo e il prete di Cerere Ampico, con le sue tempie velate da un bianco di bende. Perfino te, figlio di Lampeto, non versato in queste faccende, ma per cantar con la cetra accompagnandoti in pace, comandato ad allietare di canzoni, banchetto e festino, te che stavi da un canto con in mano il tuo plettro in belle, t'interpella ridendo Petalo. Il resto vallo a cantare sullo Stige e ti caccia il pugnale dentro la tempia sinistra. E tu cadendo ritenti con dita morenti le corde della lira e per puro caso ne cavi un motivo struggente. Ma questa morte Licorna non la lascia impunita. Vai in bestia, stacca la spranga di rovere del battente di destra e a quel petalo spacca a metà le ossa del cranio e quel petalo stramazza per terra come il torello sacrificale. Tenta di sveller la sbarra del battente sinistro Pelate della Sirte e Corito della Marmarica mentre lui tenta gli inchioda con la lancia la mano nel legno. Così inchiodato Abante lo buca nel fianco, ma lui non cade e muore appeso per la mano al battente. Stramazza anche Malaneo, schierato dalla parte di Perseo. Anche Dorila, il più ricco in terreni di tutta la Nasamonia, il facoltosissimo Dorila, di cui nessun possidente possedeva di più, nessuno che ammucchiasse più incenso di lui. E a lui si pianta di sbieco un ferro volante nell'inguine, punto mortale, quello. E come lo vede che rantola e rovescia gli occhi, l'autore della ferita, Alcioneo della Battria, di tante terre che hai, gli dice, contentati di quella che stai schiacciando, e abbandona quel corpo senz'anima. Estratta dalla ferita calda ancora la lancia, Perseo la riscaraventa in faccia al battriano, ficcata nel naso, gli sbuca alla nuca e gli penzola davanti come di dietro. E finché la fortuna lo aiuta, abbatte e Clizio e Clani, figli di un'unica madre, con due distinte ferite. A Clizio un'asta di frassino scagliata con grande violenza traversa le cosce. Clani deve addentarla una lancia. E Celadonte di Mende cade e cade Astreo di madre palestinese, di padre discutibile. Etione cade, abile un tempo a leggere nel futuro, ma tratto in inganno da un certo uccello bugiardo. E Toacte, scudiero del re, e Agirte, bollato d'infamia per aver ammazzato suo padre. Il più però resta da fare, che si accaniscono tutti contro uno solo e da tutte le parti compatti lo assaltano nell'intento comune di violare valore e lealtà. Dalla sua parte il suocero invano giusto, la sposa novella e la madre di lei riempiono gli atri di grida, sopraffatte però dal fracasso delle armi e dai rantoli dei caduti, mentre bellona in onda di sangue la casa profanata e rimescolandoli aizza i combattimenti. Fineo e le sue squadracce circondano il nostro da solo, volano i dardi più fitti d'una tempesta di grandine, da tutti e due i lati, da tutti e due gli occhi e gli orecchi. Appoggia Perseo la schiena a una grande colonna di marmo e così, coperto alle spalle, fronteggia gli assalitori incombenti. Incombeva sulla sinistra Molpeo di Caonia, sulla destra incombeva Echemmone Nabateo. Come una tigre, eccitata dalla fame, sentendo in due valli distinte muggire due armenti, non sa su quale dei due avventarsi e vorrebbe avventarsi su entrambi. Perseo così, perplesso se debba puntare a destra o a sinistra, per primo di Molpeo si sbarazza, limitandosi a perforargli una gamba e a lasciarlo scappare. Ma Echemmone non gli dà tregua e tempesta, e volendo colpirlo all'attacco del collo, senza calcolare bene lo slancio, frantuma la propria spada contro la superficie della colonna. La lama schizza in schegge e si ficca nella gola del suo padrone. Ma la ferita non basta a dargli la morte. Tremando tende le braccia inermi, invano. Perseo lo passa con la spada lunata, donatagli da Mercurio. Se non che, constatando il valore soccombere al numero, lo avete voluto voi, dice, ricorrerò all'aiuto della nemica. Se qualcuno sta con me, giri la testa. E ostende la faccia della Gorgone. Cercati qualcun altro da turbare coi tuoi miracoli, dice Tescelo, e lì, sul punto di scagliare il suo giavellotto omicida, si irrigidisce nel gesto, statua di marmo. Ampice allora si avventa col ferro contro il torace stipato di coraggio del nipote di Linceo e, avventandosi, gli si blocca il braccio, non va più né avanti né indietro. E Nileo, che simillantava generato dal Nilo di sette bocche e che anche sopra lo scudo aveva sbalzati i sette rami del fiume, parte in oro, parte in argento, guarda Perseo, proclama, le origini della mia gente. Ti consolerà vantarti fra le ombre mute che a ucciderti sia stato quell'uno ch'io sono. Ma gli ultimi suoni di voce gli affogano in gola e la bocca spalancata diresti che voglia parlare, però le parole non passano. Erice, furioso, state impalati non per la Gorgone, blatera, ma per la vostra viltà. Venite all'assalto con me e abbattiamo questo ragazzo che maneggia armi stregate. Prende lo slancio e la terra lo inchioda alle proprie urme. Non resta di lui che immoto granito, una statua soldata. E loro almeno hanno quello che si son meritato, ma c'è un soldato di Perseo, Aconteo, che mentre si batte per lui guarda Medusa e di colpo si rapprende in un sasso. Credendolo ancora vivo, Astiage fa per colpirlo con la sua lunga spada e la spada gli stride e tintinna, mentre Astiage trasecola diventa pietra anche lui e nel suo viso di marmo si perpetua quello stupore. Troppo lungo sarebbe elencare i combattenti di bassa forza. 200 son sopravvissuti agli scontri. La vista della Gorgone ne impietrisce 200. E Fineo, alla buon'ora, si pente di quella battaglia proditoria. Che fare, però? Non vede che statue in pose assortite. Sì, riconosce i suoi uomini e uno per uno li chiama in aiuto. Non crede ai suoi occhi, tocca i corpi dei più vicini, di marmo. Gira la testa e, tendendo braccia e mani di lato, riconosce la colpa ed implora. Perseo, hai vinto, riponi il tuo ordigno, quella tua testa che sassifica, mettila via, Medusa o quello che è. Metti via, ti scongiuro. Io non ho preso le armi per odio o per ambizione, per la mia donna l'ho fatto. Il merito sta dalla tua, dalla mia la precedenza. Peccato non essermi arreso subito, nulla o fortissimo. Ti chiedo, se non la mia vita, il resto tienlo per te. dice queste parole, però non osa guardare chi sta supplicando, è Perseo, quello che, o vigliacchissimo, posso concederti, ed è un bel regalo per l'imbelle che sei, niente paura, lo avrai, non sarai scalfito dal ferro, e un memoriale intendo dedicarti che sfidi i secoli, bene in vista per sempre a casa di nostro suocero. Così potrà consolarsi dello sposo mancato mia moglie. Detto questo, sposta la testa della figlia di Forco sul lato verso il quale Fineo, in trambascio, aveva girato la faccia. Quello tenta stornare lo sguardo, ma il collo indurisce, le lacrime che gli colano dagli occhi diventano ciotoli. E il marmo perpetua quel viso spaurito e plorante, perpetua il gesto di sottomissione delle sue mani umiliate. Il pronipote di Abante con consorte rientra in trionfo nella città natale e, per vendicare suo nonno, che non merita, assale Preto. Cacciato con le armi il fratello, Preto si è impadronito della rocca di Acrisio, però né la forza delle armi né la rocca usurpata gli valgono contro le torve occhiate del mostro testa di serpi. Tu però non ti lasci commuovere, Polidecte, re della piccola Serifo, né dalle gesta strepitose del giovane eroe né dalle sue sventure. Ti ostini in un inesorabile odio, una collera iniqua non ha fine. Denigri perfino la memorabile impresa e pretendi che l'uccisione di Medusa sia un'impostura. Vuoi la prova? E io te la do. Chiudete gli occhi voi altri, dice Perseo, e la testa del re con la testa della Medusa trasforma in pallida pietra. Fin qui la Tritonia Minerva ha spalleggiato il fratello, figlio dell'oro, nel cavo d'una nube, adesso abbandona Serifo, alla sua destra lascia Chitnos e Ghiaros e, sul tracciato di mare che le sembra più breve, guadagna Tebe e il monte Elicona, monte delle Vergini Muse. Insediata lassù, alle dotte sorelle parla così: «Mi è giunta all'orecchio notizia d'una nuova sorgente, aperta dallo zoccolo del cavallo volante, nato a Medusa. Perciò sono qui, volevo vedere questo portento, io che nascere ho visto il cavallo dal sangue materno». Urania dice la sua: «Qualche ne sia la ragione, questa tua visita, Dea, ci riempie il cuore di gioia. La notizia comunque è vera, origine della sorgente è Pegaso proprio, e accompagna Minerva alla sacra fonte. Ammirate a lungo queste acque zampillate, da un calcio, giro giro, contempla la dea le radure del bosco antico, le grotte, i prati tra punti di fiori, e si compiace con le figlie di Mnemosine e per la scelta del luogo e per l'arte loro. Allora una delle sorelle se ne esce. Tritonia, tu che faresti parte del nostro coro, se non ti avesse il valore destinato a più alte mansioni, è vero, e fai bene a lodarci per il luogo scelto e per l'arte. Il nostro destino, in effetti, è invidiabile, purché protette, ma l'impietà non ha argini, di tutto tremano questi cuori di vergini, e ancora ci volteggia davanti agli occhi l'atroce Pireneo, ed ancora io non sono riuscita a riprendermi. Con truppe di traci quel mostro aveva occupato Daulide e la Focide e spadroneggiava senza titoli sulla regione. Sulla via per il Santo Parnaso ci vide passare e, fingendosi devoto al nostro statuto divino, con viso compunto, figliole di Mnemosine ci aveva riconosciute. «Perché non vi riparate?» disse, «dall'acquazzone pioveva sotto il mio tetto. Gli dèi vanno ospiti spesso in modeste casette». Convinte dal suo tono e da quel tempaccio, Accettammo ed entrammo nell'atrio di casa sua. Nel frattempo aveva smesso di piovere. Tramontana aveva scacciato scirocco e nuvole nere sgombravano un cielo ripulito. Volevamo andare. Pireneo bloccò le porte e tentò di violentarci tutte. Noi mettemmo le ali e volammo via. Per riprenderci lui montò in cima alla rocca e «Per dove scappate?» urlava «Io vi inseguo per lì». Così si gettò come un pazzo dalla torre più alta, cadde di faccia a sfracellarsi le ossa del cranio e, morendo, tingeva la terra del suo scelleratissimo sangue. La musa parlava e intanto va per l'aria un fruscio di piume e voci di benvenuto scendono giù dagli alberi. Guarda in su la figlia di Giove e si chiede di dove venga un linguaggio così articolato da sembrare linguaggio umano. Sono uccelli, nove, gazze brave a imitare ogni voce, che lamentano il loro destino appollaiate sui rami. Alla dea sbalordita, altra dea non è molto fa che battute in gara, queste hanno allungato il catalogo degli uccelli. Son figlie del ricco Piero, nate nell'agro di Pella. Per madre hanno Evippe Peonia, che prossima al parto ben nove volte ha invocato Giunone Lucina. Il numero monta la testa alla folla di sciocche sorelle che, passate tutte le piazze della Caia e della Tessaglia, arrivarono fin quissù a sfidarci con questa sparata. Smettetela di abbindolare la gente ignorante con futili smancerie. Beh, ve la sentite di misurarvi con noi, dee di Tespia? Non ci superate né in fatto di voce né in fatto d'arte, e siamo nove anche noi. Se sarete sconfitte, abbandonerete la fonte di Pegaso e la Ganippe. Se lo saremo noi, lasceremo i nostri bei campi per le nevi della Peonia. Arbitreranno le ninfe. Vergognoso accettare la sfida, ancora più vergognoso rifiutarla. Le ninfe scelte, una volta giurato sui fiumi, prende un posto sopra un sedile dalla roccia viva cavato. Allora, senza sorteggio, chi aveva lanciato la sfida attacca a cantare le guerre d'Olimpo, esaltando a sproposito i giganti, le imprese dei grandi dei, sminuendole invece. A sentirla, Tifeo, figlio di Madre Terra, arrivava a terrorizzare i celesti, costringendoli tutti quanti a darsela a gambe, finché, sfiniti, non ripararono in terra d'Egitto alle sette bocche del Nilo. A sentirla, Tifeo, figlio di terra, li avrebbe raggiunti laggiù, tanto che si sarebbero nascosti sotto mentite spoglie. A capo del gregge, lei canta, si mette Giove, per cui ancora oggi in Libia Ammone a corna ricurve. Si camuffa da corvo Febo, da becco il figlio di Semele, la sorella di Apollo da gatto, Giunone da candida vacca. Si nasconde in un pesce Venere, sotto le ali dell'ibis Mercurio. E con la sua cetra aveva cantato abbastanza, adesso toccava alle muse. Ma tu forse hai altro da fare, non avrai tempo da perdere dietro alle nostre canzoni. Non preoccuparti, racconta tutto per filo e per segno, risponde Pallade, e all'ombra leggera del bosco si accomoda